belle, le semplici tusan milanesine, che sembran tante tante madonnine, care stelline del me Milan. Son belle, son belle, svegliatevi madonne fiorentine, il sol di maggio invita alle tacine, belle bambine del nostro cuore. Torinesina, io t'amerò come Torina, sul lungo posto sognando. Son belle, son belle, rivive nelle nuove romanine la grazia antica delle fornarine, trasteverine, fate all'amore sognando. Son belle, son belle, le triestine cantan con ardore, chiedendo solamente un po' d'amore, e il nostro cuore le ascolterà.